Quando io dico una pietra su, dico veramente una pietra tombale, anche se in questi giorni è così inelegante parlare di pietre e di pietre tombali, soprattutto visto quello che di serio e di tragico succede nel nostro paese. Io dico che quei due anni dovrebbero essere neutralizzati dalla storia del calcio, niente scudetti riassegnati, ci va messo veramente il sale sopra quei due anni. La Juventus ha il dovere, e mi sembra che oggi intelligentemente anche Luigi Garlando l'ha scritto sulla Gazzetta dello Sport, di guardare al futuro. La Juventus è il futuro e la speranza del nostro calcio, per chi ama veramente il calcio e per come si sta predisponendo a questo futuro. Come si fa a fare un paragone morale fra Marotta e Moggi? Perché Agnelli cade in questi tranelli populisti? Non lo deve fare, non lo deve fare. La Juventus ha ritrovato la strada della serietà, della coerenza e della dignità, e noi siamo in piedi ad ammirarla per i sacrifici che ha fatto.